Mi chiamo Stefano Luigi, sono nato nel 51, quindi ho 56 anni compiuti. Studi fatti, ho sbiennato a scienze politiche prima di fare l'ISEF. Sono diplomato con una tesi put a caso di pallavolo. Giocato fino alla Serie B, che insomma abbastanza, con Fangareggi padre come allenatore, con qualche disquisizione sulla tattica tra lui allenatore e me palleggiatore. E poi mi sono deciso, dopo essermi sposato quel di Mestre, mi sono deciso di, era a metà stagione, il presidente ha deciso di sostituire l'allenatore di missionario con me, l'ha cominciata la carriera, avevo allora 29 anni. Probabilmente potevo cominciarla prima, ma avevo ancora voglia di giocare, cosa che ho tuttora. Allora, Gigi Schiavone, allenatore attuale della Nazionale Juniores, tocchiamo un tema a me caro, dividiamo la pallavolo in tre aree, lo sviluppo della qualità tecniche individuali, la preparazione fisica e la preparazione tattica e statistica. Come si sono evolute queste tre aree nella pallavolo moderna? Beh, la statistica adesso la sta facendo forse esageratamente da padrona, perché ormai tutti avete visto anche adesso la partita, tutti vanno a vedere i numeri. In realtà è quello uno degli aspetti. Tra l'altro i numeri devono essere interpretati perché non sempre da soli riescono a dare un'identità di ciò che può essere stato il motivo della vittoria, della sconfitta. Ce ne sono altri molti. Però certo che ormai è diventata una cosa che anche i presidenti, che una volta si guardavano bene, adesso anche i presidenti vanno a vedere gli scout. Naturalmente, avendo avuto importanza, e da un punto di vista proprio scientifico, c'è stata una grossa evoluzione con i vari indici, cambio palla, indici. Anch'io ne ho inventato uno, l'indice Schiavone, che riguarda un po' le rigiocate. E indubbiamente, da questo punto di vista, il data è nato in Italia, siamo all'avanguardia. Le altre due sono sicuramente un aspetto tattico conseguente, anche perché i numeri ti danno grosse, e la scoutizzazione ti dà grossi vantaggi su alcune situazioni di gioco. E quindi anche là, da un punto di vista tattico, la faccenda è andata molto avanti. Per quanto riguarda gli altri due aspetti, c'è sicuramente da fare una distinzione tra ciò che è il settore evoluto e ciò che invece è il settore giovanile. Sto riferendomi in particolare sull'aspetto del condizionamento organico. Anche qua, ormai attingendo prima dall'atletica, poi direttamente da allenatori che hanno alle spalle studi idonei, anche da questo punto di vista credo che siamo andati molto avanti, siamo in grado di fare delle buone schede di condizionamento. Vedo anch'io, tra l'altro, mi interesso da un punto di vista, sì, naturalmente da capo allenatore, ma anche da un punto di vista personale. Credo che invece l'altro discorso che riguarda la tecnica e il condizionamento fisico nel settore giovanile sia un po' da verificare. Qua bisogna aprire una parentesi su quello che sono un po' le evoluzioni della tecnica, perché indubbiamente i rally point system, ma soprattutto il fatto di poter colpire la palla con tutte le parti del corpo, con la maggiore velocità della palla, stiamo parlando in particolare della distribuzione, hanno fatto sì che la vecchia palleggio bagger, muro attacco, abbiano avuto un'evoluzione da un punto di vista tecnico. Ed effettivamente non so se da un punto di vista didattico è stata assorbita la faccenda. E vedo un po' di. Indubbiamente il fatto che ci siano non solo il palleggio classico, in avanti, all'indietro, con le posizioni, ma il fatto che il palleggio abbia varie applicazioni, lo stesso dicasi per il bagger, forse ci ha fatto un po' dimenticare che alla fin fine il palleggio e il bagger sono le fondamentali base e devono essere curati nei loro aspetti proprio di base, per poi eventualmente procedere a quelli che sono gli adattamenti. Un altro falso, secondo me, è un po' il fatto che più di qualche allenatore, ed è sostanzialmente vero, non parla di tecnica ma di tecniche, cioè in pratica la tecnica applicata su quello che è il fisico del giocatore. Io qua avrei, sì, sono d'accordo, ma mi viene a fare delle considerazioni che da un punto di vista biomeccanico il fondamentale è quello, per cui indubbiamente ci sono leve diverse, dita diverse, mani diverse, ma da un punto di vista meccanico la faccenda dovrebbe essere ben rispettata. Quindi credo che ci siano degli adattamenti da fare da un punto di vista della tecnica e della didattica. E per quanto riguarda il settore giovanile, non vorrei che che con la faccenda del raggiungimento del risultato, perché anche quello ormai sta scendendo, e per fortuna oggi ha avuto una telefonata del presidente in cui ha detto stai tranquillo, cerca di far venire fuori un paio di giocatori buoni, non guardo ai risultati, ma se mi tiri fuori un paio di giocatori buoni per il futuro, che è un po' il compito del settore giovanile, tirare fuori atleti da prima squadra a qualsiasi livello. Quindi credo che là bisognerà fare un attimo, spero di poter dare un contributo alla pallavolo italiana attraverso un po' di idee e un po' seguendo quello che è possibile con quelle che sono le mie capacità, gli allenatori da questo punto di vista, istigando un po' anche le società a chiarire bene quali sono i compiti del settore giovanile. E l'altra cosa che ti dicevo era interessante, il fatto che nell'evoluzione del fondamentale nel settore giovanile bisogna che ci siano via via i prerequisiti, quelli che sono i condizionamenti organici per andare oltre. E io credo che da questo punto di vista è una abbinata tra ciò che è possibile evolvere e allenare dal punto di vista tecnico e studiare quelli che sono i prerequisiti, come ti dicevo. Quindi per esempio vogliamo fare della buona difesa, bisogna essere in grado di curare bene gli angoli, ma di sentire gli angoli a livello propriocettivo, sia in maniera simmetrica sia in maniera simmetrica, avere una buona sensibilità per il bagger laterale e così via. E se vogliamo introdurre la diagonale stretta dobbiamo avere un certo tipo di colpo di palla, dobbiamo stare attenti alla spalla, l'extra rotazione e l'intra rotazione, dobbiamo stare attenti. Quindi secondo me questo è il discorso del condizionamento organico nel settore giovanile. E sull'aspetto tecnico direi che bisogna riprendere un po' le fila del discorso. Si parla spesso, forse banalizzando, che le generazioni giovani attuali hanno meno spirito di sacrificio. Ma può essere vero, tra virgolette. Io credo che ci sia un po' più di voglia di protagonismo, perché la società tende a voler tutti protagonisti, vedi grandi fratelli vari, cognati e così via. E l'altro concetto è un po' dell'arrivare attraverso le scorciatoie varie, quindi meno lavoro, qualcos'altro di diverso. Io insegno alle medie e in particolare ho estremo piacere ogni anno di cominciare con le prime, perché io credo che tutto sommato rispetto ai miei tempi, ai tuoi tempi che magari erano successivi, i ragazzi adesso sono direi più svegli. Però a quell'età là hanno voglia di scoprirsi, di capire cosa cavolo possono fare del loro corpo, eccetera, eccetera. Lo sport è uno degli strumenti. Se noi riusciamo a instigare il virus giusto, i risultati hanno dimostrato in tutte le specialità, non solo nella pallavolo, che gli italiani continuano a produrre risultati. Vedi nuoto, vedi rugby, vedi eccetera, eccetera. Per cui è un discorso da prendere un po' con le pinze, anche se oggettivamente può essere meno la fame, tra virgolette, perché per uno sport un po' particolare come la pallavolo, dove la tecnica la fa da padrona e dove per acquisire i fondamentali tecnici ci vuole effettivamente due cose, due situazioni, qualità dell'allenamento, e la qualità dipende dal tipo di stimolo che dà l'allenatore, quindi la qualità dello stimolo e dalla voglia dell'atleta. E dopo è la quantità, il numero delle ripetizioni qualitativamente significative che ti permettono di acquisire il fondamentale, di specializzare, di acquisirlo, poi di approfondirlo e poi di automatizzarlo. Torniamo quindi alla tecnica. C'è secondo te un fondamentale che più di altri deve essere focalizzato con attenzione? Ma io sono di vecchia scuola pitteriana, eccetera, eccetera, ma credo che a tutt'oggi pur essendo il fondamentale bagger quello più adoperato di fatto da un punto di vista statistico in campo, siano proprio il palleggio di base, perché ha, attraverso la sua evoluzione, attraverso la sua cura, si creano i presupposti per far bene anche gli altri fondamentali, valutazione traiettoria, spostamento, il concetto di precisione, vari concetti che poi sono utili in tutti gli altri fondamentali. E tra l'altro è il fondamentale che ti permette da subito, direi, di giocare l'uno contro uno, il due contro due. Per cui secondo me rimane il palleggio il fondamentale più importante a livello di base. Quello più difficile invece che rimane secondo me da insegnare rimane la schiacciata, anche se è quella più soddisfacente, perché tutti i maschi e femmine vogliono. E ci metterei un dito un po' su, non è un'accusa, ma si tende a cominciare tardi a fare muro. forse perché non ci sono le condizioni nel senso fisico, c'è l'attacco, roba del genere, ma io credo che sia importante, a prescindere dall'applicazione che può avere nel gioco dell'under 12, dell'under 13 e così via, introdurre lo stesso il concetto per via della sensibilità. Tu sai che ci sono delle cosiddette fasi sensibili nell'evoluzione nostra umana, proprio delle capacità motorie, e saltarne qualcuna non è, o non farla bene non è il caso. Resta il fatto che ci sono sicuramente delle priorità e sono quelle che ti ho detto. A livello di prime squadre il Brasile domina la scena internazionale dal 2002, non perde praticamente mai, ma la novità ultima è un po' la Francia, che guarda caso ha vinto anche l'Europeo pre-juniores. Eliano Petrelli, un nostro caro conoscente che lavora molto bene con le giovani, mi ha detto di fatto è come se i francesi sapessero giocare un po' meglio rispetto agli altri. Mi puoi spiegare un po' meglio questa idea di giocare? Ma credo che sia un po' il concetto che dicevamo prima, un concetto di carattere tecnico, cioè i francesi addomesticano meglio di noi la palla in tutte le varie situazioni di gioco, in particolare la difesa, e qua c'è anche un concetto di mentalità. La difesa, che se ne dica, tu sei stato uno di quelli con Giulio, ma anch'io, il fatto che la difesa identifica e il giocatore e la squadra, e il giocatore da un punto di vista individuale, la voglia di prendere sempre e comunque, le famose frasi di Karczkirali eccetera eccetera, e la squadra, che è un po' l'organizzazione muro difesa, dove c'è proprio l'insieme del rendimento dei vari giocatori. È chiaro che credo che a livello federale ci sia proprio la volontà, credo che ci saranno state, come per esempio ho fatto io in questi giorni, dei contatti tra l'allenatore della prima squadra, l'allenatore del settore giovanile, e probabilmente nell'habitat proprio del settore giovanile il fatto di dare priorità ad alcune cose che si stanno rivelando in qualche modo vincenti. La pallavolo si è sempre sviluppata con scatti abbastanza particolari, dal passaggio dal palleggio al bagger, la scoperta del bagger negli anni 80, quella ricezione a due, e quindi in un contesto apparentemente evoluto arrivava qualcosa che sembrava impossibile e che poi ha effettivamente cambiato i contorni di una pallavolo. Lasciati pure andare, qual è secondo te l'area nella quale potrebbe esserci il prossimo passaggio in avanti? Se lo sapessi probabilmente sarei l'allenatore del futuro, perché quasi sempre questi scatti l'hanno fatto i geni, che delle volte sono risultati vincitori, delle volte no. Vedi Bill, vedi tutto sommato Carmelo, Velasco e così via. Io passo invece per, non so se sono un genio, anzi non lo credo, sono uno che spero di avere appreso da tutte le varie situazioni di pallavolo quello che adesso mi permette di pensare di poter far bene. Però sicuramente adesso come adesso credo che tutta questa famosa fisicità, che indubbiamente in questo momento più di qualcuno la sta facendo mentalmente da padrone, cioè i gran centimetri, cioè altezza e gran salto, gran saltatori e quindi potenza, e sì, sarà, però la differenza, ripeto, continuerà a farla la tecnica. Quindi credo che là ci sarà un qualcosina da abbinare alla tattica. Credo che con la velocità attuale della palla e così via ci sarà, credo che potrebbe essere una piccola rivoluzione, chi riuscirà. Io ci ho provato con un paio di soluzioni tattiche un po' esasperate, perché con la tendenza attuale magari qualcuno di provare a correre dietro a tutto sembra che non, per cui se qualcuno studierà dei sistemi tipo delle chiamate in abbinata, secondo me durante, quindi è questo che potrebbe essere un'idea, durante la fase di volo della palla dalla ricezione al palleggiatore, perché quella andrà a condizionare l'evoluzione del gioco. Credo che se una squadra, e mi piacerebbe magari pensare di poter fare una cosa del genere, se riuscirà da un punto di vista tattico in quelle situazioni a essere brava come se fosse palla alta, credo che potrebbe essere una maniera per avere un gap, un qualcosa in più che potrebbe fare la differenza. È chiaro che per fare questa roba qua ci vuole anche tecnica, sennò... Qual è secondo te l'ultima vera rivoluzione della pallavolo? Beh, il rally point system è chiaro, è un regolamento, per una volta non è stata la tecnica o la tattica, ma è stato il regolamento. Io sto riversando da VHS in DVD le partite, che 40.000 che ho, e non riesco a sopportare più quella pallavolo neanche perché guardo le partite che ho vinto, che non sono poi tante. Abbiamo, parlo del record famoso 18-16, 68 minuti un set contro Bologna. Io credo che la rivoluzione che a cascata ha prodotto altre cose sia stata proprio il rally point system, che se ti ricordi non tutti, riandando alle interviste, eravamo convinti, invece di fatto ha spettacolarizzato la pallavolo.